Allora, vediamo un po' cosa ci è rimasto da, sì, da affrontare. Dunque, stiamo sempre nel campo dei solventi fluorurati, di cui abbiamo visto l'impiego e soprattutto il recupero, perché sono solventi che a freddo sono insolubili sostanzialmente nei cosolventi partner che si usano nella reazione, quindi alla fine possono essere semplicemente recuperati con un banale imbuto separatore industriale, se vogliamo. Una delle reazioni che si può fare, tenendo conto e ricordando che questi solventi solvatano molto bene sia i gas che la roba inorganica, quindi sostanzialmente i catalizzatori metallici, dobbiamo tenere presente che questa metodologia è in grado quindi di far lavorare, soprattutto quando utilizziamo dei gas, senza le bombole, perché noi saturiamo in realtà con il gas il solvente fluorurato che dobbiamo utilizzare e lo utilizziamo così com'è. Una volta avevamo le bombole. Ma non si possono più utilizzare le bombole ad alta pressione, soprattutto. Allora, una delle reazioni che potrebbe essere utilizzata, che potrebbe essere effettuata, è la trasposizione di un allilettere in vinilettere. Questa reazione, che di solito prevede un catalizzatore, di solito il palladio su carbone, può essere effettuata con due solventi, uno fluorurato e un altro normale, scriviamoci H, tanto per intendersi, sarà un alcano sostanzialmente, che potrebbe essere, che ne so, l'esano, e sotto l'esano fluorurato si scalda, si ottiene come al solito una miscela completamente omogenea in cui avviene la reazione. Alla fine avremo sopra il prodotto di reazione, quindi sarà il mio vinilettere, e sotto il solvente fluorurato che andrà a essere riciclato contenente il palladio su carbone o qualsiasi altro tipo di catalizzatore noi stiamo utilizzando in questa cosa qui. Oh, questa reazione che avviene scaldando, avviene quindi ad una temperatura che è classica di quella che le tabelle riportano per la coppia dei solventi che noi abbiamo deciso di utilizzare. Questo tipo di passaggio prevede che non ci sia mai l'acqua nel mezzo. In questo contesto, con questa variante, noi possiamo mantenere il vinilettere intatto nella sua forma vinilterea. Perché se facessimo questa reazione in acqua, il risultato sarebbe completamente diverso, perché in acqua noi arriveremmo in fondo, ad ottenere l'aldeide corrispondente. Quando quindi queste reazioni si fanno in acqua, e qui c'è una scelta ovviamente, perché fare una reazione in acqua si può fare, col palladio sul carbone si può fare, e magari bisogna però utilizzare un cosolvente, perché magari il mio allilettere, non essendo solubile nell'acqua, mi prevederebbe tempi di reazione molto lunghi. Allora ci vuole, che ne so, il tetraidrofurano, l'aceto nitrile, che sono comunque solventi che noi cerchiamo di non utilizzare nella green chemistry. Immaginiamoci di costruire una reazione che potrebbe essere anche improbabile, ma siccome uno degli obiettivi di questo corso è anche inventarsi le cose, in qualche modo, cioè progettare delle reazioni che possono avvenire, che magari non sono state ancora fatte, ma che noi possiamo prevedere di poterle fare. È difficile che una reazione, non sia stata fatta, perché qui nel mondo oggi è stato fatto quasi tutto, però ancora alcune cose mancano. Una di queste potrebbe essere una reazione di coupling, cioè di accoppiamento. Di solito noi che cosa usiamo? Rx più un catalizzatore, di solito è un catalizzatore metallico, più Ry, cerchiamo di fare qualcosa che assomiglia a RR, più il sale, metallo X, Y. Questo potrebbe essere un meccanismo di reazione in generale. Cosa si fa? Di solito si prende questo signore, si fa reagire con il reattivo di Grignard e si cerca di fare il coupling, cioè l'accoppiamento dell'RMGX, un R sostanzialmente meno, e un RX, un R sostanzialmente più. Come si è detto già in passato, questa reazione in realtà, se non è mediata da un metallo di transizione, non avviene per la differente hardness e softness dei partner messi insieme. Quindi ci vuole un catalizzatore che, a prescindere dal reattivo di Grignard utilizzato, medi la reazione. Quindi sostanzialmente che cosa si potrebbe fare, almeno sulla lavagna? Si potrebbe prendere RX, lo dobbiamo far reagire con un catalizzatore, ovviamente, che dovrebbe essere, per esempio, il nickel, bis di fenilfosfinetano, che ne so, di alogenuro. Scriviamo per un attimo una volta sola. CH2, qui ci sono due CH2. Questo è un nickel 0, il nickel 0 sappiamo che si ficca qui dentro. Questo è il ciclo delle due fosfine, X. A questo punto, questo signore reagisce con un R' MgX. Il risultato sarà R nickel con le due fosfine e R'. A questo punto si ha l'eliminazione riduttiva e si forma R R' più il nickel 0 legato alle due fosfine, che ce lo ritroviamo all'inizio della reazione. Come vedete, quindi il ciclo è catalitico. Di nickel se ne usa molto poco. Tra virgolette, tanto non c'è nessuno. Qui il nickel, che noi possiamo usare anche il nickel tetrachistrifenilfosfina, cioè un nickel 0 che si compra con quattro fosfine attaccate insieme. Questo prevede che due fosfine si stacchino nella reazione, perché i leganti si attaccano e si staccano un po' in equilibrio tra di loro, le varie forme del nickel, con tre fosfine, con cinque fosfine, con quattro fosfine e così via, e con leganti alternativi che possono essere i doppietti degli elettroni, dei solventi, eccetera, eccetera, o dei reagenti. Va benissimo, meraviglioso, eccezionale, però il nickel bis di fenilfosfinetano di cloruro di partenza, per esempio, ha le due fosfine legate in cis, che sono la vera specie che funzionerà, perché quando andate qui e fate la reazione di eliminazione riduttiva, guardate che questi due devono stare dalla stessa parte, perché se no la reazione di eliminazione non avviene. Allora, quando uso delle fosfine staccate, libere, non c'è nessun ciclo nel mezzo, io ho il mio composto R nickel R', in equilibrio la cis con il trans. Allora, in realtà, questo è il catalizzatore sostanzialmente, ma la specie catalitica vera, poi, alla fine, che reagisce, è questa. Quindi, del catalizzatore, ce n'è una quantità catalitica ancora più piccola che fa questo giochino qui. Allora, partiamo dal fatto che usiamo ancora meno nickel, tanto la reazione in laboratorio, uno schizzo in più, uno schizzo in meno di nickel conta poco. Ma quando un giorno mi telefonarono da una ditta farmaceutica e mi dissero: se tu lavori col nickel? Sì, allora lavoravo col nickel. Mi puoi prestare un po' di nickel di fenilfosfinetano di cloruro? Dico sì. Quanto te ne serve? 250 grammi, che sono una quantità enorme, da mettere in un reattore da 200 litri. Ovviamente era tutto proporzionato. Dissi: no, guarda, io al massimo ce l'avrò 5 grammi che me lo faccio durante tre tesi. Sì, 250 grammi. Questo è proprio un modo di pensare catalíticamente diverso, no? L'industria lavora su grosse quantità e il catalizzatore, che è sempre in quantità catalitica, però diventa sproporzionato. Questa reazione si può fare in queste condizioni, perché io cosa faccio? Cioè avrò due solventi, quello fluorurato e quello non fluorurato. Il reattivo di Grignani, RMGX, sarà solubile qui, nel fluorurato, perché voi sapete il reattivo di Grignard ha una modesta solubilità in tetraidrofurano, in etere etilico, ma è modesta, perché i solventi eterei solvatano il magnesio e lo portano in soluzione. In questo contesto questo ha la caratteristica di essere una vera e propria coppia ionica, cioè un R- e un MgX+, quindi come cloro di sodio, quindi il solvente fluorurato t'aiuta. E sopra ci metterò, ovviamente qui c'è il nickel anche, che è il catalizzatore, e qui sopra ci metterò l'RX, che sarà solubile almeno al 95% nella fase di sopra. Quando io scaldo e comincio a le fasi a unificarle, accade qualcosa, la reazione. Alla fine della reazione io mi trovo sempre in due fasi. Quella di sopra, dove non ci sarà sostanzialmente niente. Quella, se non il prodotto di reazione, che sarà il prodotto di coupling, fai conto R'. Di sotto ci avrò il nickel che rimane come catalizzatore e i sali di magnesio MgX2, questi ce l'ho. Beh, che problema c'ho? C'ho il problema che qui devo fare una bella filtrazione perché l'MgX2 non ce lo posso riportare qua. Però una volta che ho filtrato tutto, riposso mettere il reattivo di Grignard fresco nel solvente fluorurato e fare questa bella reazione. Beh, però ci ho dovuto pensare perché ho dovuto metterci un'operazione di filtrazione in più nel mezzo, cosa che prima nelle altre reazioni che avevamo visto la volta scorsa non avevamo fatto. Bene, bene. Questo dà adito anche a un altro ragionamento. Noi potremmo non filtrare e fregarcene. No, perché alla fine qui abbiamo un sacco di sali che ci creano un sacco di problemi. Non tanto perché i sali facciano qualcosa di tipo meccanico, cioè si impastoia tutto, diventa tutto più un pappone, la densità del sistema aumenta, quindi muovere qualche cosa con una paletta a livello industriale del reattore diventa più complicato e così via. Ma perché la concentrazione dei sali, in questo caso l'MGX2, a un certo punto ci modificherà la reazione. Perché voi dovete sempre tenere presente che, in questo caso il nickel, ma ci potrei mettere qualsiasi altro metallo di transizione, quando è sotto forma di, per esempio, di cloruro, così, si complessa al magnesio, così. Più magnesio c'è, più questo complesso è stabile. Più questo complesso è stabile, meno nickel libero c'è. E quindi aumentando la concentrazione dell'MgX2 in quantità elevatissime, non c'è più catalizzatore libero. È tutto lì. Questo è un concetto che possiamo rivedere fra un attimo quando diremo qualcosa su delle reazioni che riguardano per esempio la famosa reazione di Ziegler-Natta. Perché anche questa si può fare, la Ziegler-Natta si può fare in queste condizioni. Cosa intendo dire? Si può fare in queste condizioni, si può fare anche senza solvente, però bisogna tenere presente che la Ziegler-Natta è estremamente sensibile al co-catalizzatore, che è l'acido di Lewis che si mette nella reazione. Sospendiamo per un attimo questo discorso, che lo riprendiamo fra un attimo. Queste reazioni qui, volevo però, prima già che ci siamo, e in qualche modo qui cerchiamo anche di colmare delle lacune di tipo organico, io non è che voglio tanto colmare una lacuna, però voglio puntualizzare questa reazione qua. Ammetti di avere un alchene così. Se ho un alchene così e lo faccio reagire con HgX2, sì, l'acetato va bene, ma anche il cloruro va bene lo stesso, io alla fine avrò, secondo quello che è il meccanismo di questo signore che si chiama Larocque, che ha studiato questa roba, con H2O, quindi OH meno, sostanzialmente, l'OH entra qui, CH2HGX. Avrò questo. Benissimo. Questo sta qui e non fa nient'altro, cioè rimane lì. Noi a livello di organica 1 ci aggiungevamo qua il sodio cloriduro per fare che cosa? Per fare questa cosa qui. HgH. Qui ci sono 180 gradi tra il mercurio, il carbonio e l'idruro. Per cui questo poteva solo fare una cosa, rompersi qui. Nel rompersi qui avrebbe fatto il radicale qui e il radicale qui, che si sarebbero sbattuti insieme, questo idrogeno sarebbe finito qui sopra e il mercurio se ne sarebbe finito in soluzione come Hg due punti. Benissimo. Guardalo lì. Prendi questo. Mettici il palladio di cloruro. Uguale, HgX2, palladio di cloruro. Cosa succede? La stessa cosa. CH2, palladio, X, questo chiaramente c'è un più nel mezzo, e il controione che è X meno. Benissimo. Arriva l'acqua, quindi la parte OH- dell'acqua attacca dove deve attaccare palladio X. Ok? Sostanzialmente siamo in queste condizioni. A questo punto, se questo è un idrogeno, l'orbitale del palladio che è qui, fatto così, vuoto, si piglia questo idrogeno qui, così, no? E questo fa così. Quello che succede è, fai conto, CH2, quindi l'aldeide, in questo caso fai conto che ci sia l'idrogeno anche qui, così non ci complichiamo la vita con varie cose, con la reazione chimica della reazione, e io ho CHOCH3. Il palladio 2, PdXH, elimina acido alogenidrico e rimane palladio 0. E sono fregato perché io qui avrei avuto bisogno di un PdCl2. Allora cosa dice il libro? Il libro dice che ci metto dentro una strana specie, 2 molecole di CuCl2. Due molecole di CuCl2. Perché? Perché? Perché devo riossidare il palladio 0 a palladio 2. Guarda che succede. Come nel caso del nichel. Questi legami cloro sono a ponte tra il palladio e il rame. Si staccano di qua, si forma PdCl2 e questa specie misteriosa che sul libro non si capisce mai da dove viene. Cu2Cl2. Ecco come viene fuori Cu2Cl2, specie misteriosa. Nella reazione di Wacker. Wacker è una reazione green perché si fa nell'acqua, tra le altre cose. Allora, la differenza, guarda che strano. L'acetossimercuriazione è un processo Wacker, solo che c'è un problema. Il mercurio, e non ce l'ha qui l'orbitale libero per potersi prendere l'idruro che c'è qui, mentre il palladio sì. È per questo che a questo livello, se io ci metto il palladio qui, se io ci metto il palladio qui o qui, perché guardate che questa specie qui è identica a questa specie qua. Vedete? Sono uguali. Ma in un caso c'è il palladio e in un altro caso c'è il mercurio. Capisci che la differenza sta nella presenza di quell'orbitale vuoto? Il mercurio c'ha il suo legame carbonio-mercurio-idrogeno, carbonio-mercurio-alogeno, che è a 180 gradi. Il palladio no, perché il palladio fa specie planari quadrate. Quindi gli orbitali sono in posizione diversa. La posizione degli orbitali ti fa scegliere il tipo di metallo che devi usare. Quindi non usare il palladio, usa il nickel. Non usare il nickel, va bene, usa il platino. Ma il mercurio non lo puoi usare, perché non fa parte della stessa colonna e quindi ha orbitali completamente differenti. Ma queste due reazioni, in realtà, altro non sono che un'altra reazione, che è una reazione green, che si fa nell'acqua lo stesso. È la reazione di Clemmensen. Clemmensen è uno dei due o tre sistemi che noi abbiamo per ridurre un chetone a alcano. E allora, come fai a fare questa reazione? Zinco e acido cloridrico. Allora, la reazione di Clemmensen, il meccanismo della reazione di Clemmensen non c'è scritto da nessuna parte. Ma vogliamo provare a vedere se si riesce a fare la reazione di Clemmensen. Zinco più acido cloridrico. Zinco più acido cloridrico. Cosa vuoi che faccia? Zinco Cl2. Quindi il cloro di zinco è quello che invece del PdCl2 o dell'HgCl2 che dobbiamo usare ora. Ma lo zinco è più hard, ed essendo più hard si aggancia al doppio legame carbonio-ossigeno, che è più hard. E quello che fa è questa cosa qui: ossigeno, zinco, X più X meno. Oh, e c'è poco da fare. L'X meno fa questo lavoro qui, qui c'è una carica positiva, ovviamente, e questo fa questo lavoro qua. X O ZN X, scriviamolo così. Il legame carbonio-zinco, carbonio-alogeno in acqua con lo zinco, a differenza, ma anche in modo quasi uguale a quello che fa il tipo di Grignard, fa questa cosa qui. E questa cosa qui, ovviamente, in acqua, non può che idrolizzarsi e fare questa cosa qui. Ma questo è lo stesso meccanismo che produrrà fra qualche istante ossido di zinco e l'alogenuro. L'alogenuro con lo zinco farà lo zinco alchile, che in acqua, qui c'era un idrogeno, qui c'era un idrogeno che era entrato, darà origine all'alcano. Che differenza c'è? Guarda, il meccanismo è lo stesso. Sono arrivato qui, ho fatto questo, o entra lo H o entra X, sono in equilibrio tra di loro, chi se ne frega, però nota come in questa situazione, che è la stessa reazione del processo Wacker, è la stessa ossimercuriazione, noi con un piccione solo abbiamo preso per fare, perché sostanzialmente il meccanismo è sempre lo stesso. Allora, riuscire ad avere una visione organica dei meccanismi così è la cosa più importante per la chimica organica. Perché si capisce che c'è un solo, sostanzialmente una sola chiave di lettura, tutto lì. Ecco, questo era per chiudere un po' questo discorso che riguarda la chimica dei composti che utilizza i solventi polifluorurati. Ovviamente possiamo prendere qualsiasi altro esempio nella vita, immaginatevi qualsiasi altra reazione, provate a immaginarvela sulla carta scrivendola in questo modo, cioè vediamo se si può fare in qualche modo con uno di questi solventi. E affrontiamo un altro invece grosso capitolo, che ancora una volta riguarda la green chemistry, ma riguarda i solventi che vengono utilizzati nella green chemistry. Un'altra classe di solventi completamente differente, che sono i liquidi ionici. Allora, i liquidi ionici sono sostanzialmente dei sali di, sostanzialmente di ammonio, ma esistono anche sali di fosfonio, di solfonio, che hanno sicuramente meno usi, meno utilizzi, però ce l'hanno. Allora, un sale, per sua natura, è una specie abbastanza polare. Quindi è una specie che sicuramente, se fosse liquida, potrebbe solvatare veramente delle cose incredibili che non si riescono a solvatare con gli altri solventi. Per esempio, che ne so, solvatare il cloruro di sodio nell'etere etilico non si può. Mi ci vuole un po' di 18 corona 6 o di 12 corona 4, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Il 12 corona 4, il 18 corona 6 a volte hanno dei problemi. Il 18 corona 6 è infartogeno, anche se si usa in quantità catalitiche. Ci si può ammazzare la socera, perché dopo il 18 corona 6 non si vede niente nel sangue, perché c'è il glicol etilenico, e quindi probabilmente il CAI non lo trova. quindi è perfetto, insomma, un goccino nel cucchiaio del caffè e vai alla grande. Quindi ci sono delle difficoltà. Nel caso dei solventi di questo tipo, questi nascono perché si notò a un certo punto che la piridina, che si complessava con qualcosa, per esempio HX, a secondo di questo X, manifestava, come dire, una certa igroscopia all'inizio, e poi aveva dei punti di fusione che non erano altissimi. Ancora meglio composti di questo tipo, con qui un R, quindi, e un X meno, uno alchil piridinio cloruro, bromuro, ioduro, tosilato, tetrafluoborato, esafluofosfato, a seconda del controione, questi composti potevano avere un punto di fusione basso. Quindi si potevano utilizzare questi derivati. Ovviamente c'erano dei derivati che erano stati studiati, che erano anche abbastanza interessanti, perché fa reagire per esempio questo composto, cioè l'uno alchil piridinio cloruro con la LCl3, prevedeva che si formasse un composto fatto così. La parte organica è sempre la stessa, ma il controione era diventato LCl4-, tetracloro alluminato. Allora, pensate che se io uso un acido di Lewis diverso con degli alogenuri differenti, ho tutta una vasta gamma di prodotti che hanno punti di fusione differenti. La storia dei punti di fusione è molto importante, perché quando io riesca a ottenere un prodotto che abbia un punto di fusione basso, lo posso usare come solvente, se ovviamente questo non mi reagisce con i miei reattivi della mia reazione. Bene, in particolar modo, uno dei composti più utilizzati come sale d'ammonio quaternario, bisogna che lo scriva così, è l'imidazolo. L'imidazolo, così com'è, può essere trasformato in R' più, X meno. Questi composti prendono sostanzialmente, convenzionalmente si chiamano con le iniziali dell'imidazolo, IM, precedute dalla, dalle iniziali dei due gruppi R che sono attaccati agli atomi d'azoto. Quindi, metiletilimidazolo, per esempio, potrebbe essere questo. Il benzil etil imidazolo sarebbe questo, così si chiamano. Per convenzione, perché i chimici industriali soprattutto i nomi gli danno un fastidio, chiamano con le sigle le cose, noi, cioè i chimici organici sono più precisi su questa cosa qui. E i controioni possono essere di tutto. Allora, prima di vedere le reazioni che noi possiamo fare con questi prodotti, bisogna che ce li sintetizziamo una volta per tutte. Poi però li compreremo, se Dio vuole, dalla chimica industriale che fa e butta sul mercato questi prodotti perché questi hanno cominciato ad avere un grande successo e quindi vengono utilizzati in grossa quantità e quindi possono essere prodotti a basso costo, perché tutto è collegato insieme. Quindi, se io ho un... Parto dal metilimidazolo, o meglio, partiamo dall'imidazolo, che è questo, ancora prima, a monte. Lo trattiamo con sodio idruro e lo trattiamo con RX, mettiamoci metileioduro. Questo è il modo classico per fare questa reazione. E noi ci siamo fatti il metilimidazolo. È evidente che te ormai lo sai fare col trasferimento di fase. Invece di usare il sodio idruro, eccetera, eccetera, usi il trietilbenzilammonio bromuro, o guarda un altro strale d'ammonio in quantità catalitiche, l'NaOH al 20%, e vai avanti così. Midazolo, nessun problema. Bene, se io questo lo faccio reagire con l'etilcloruro, ce ne devo mettere 5 moli e lo devo fare agire per 2 giorni a 70 gradi. Pensa te, dopo un po', in 2 giorni ci metto metile azoto ed etile lo schiaffo di qua, più cloruro e faccio l'etil metilimidazolil cloruro. Guarda quanto tempo ci è voluto. Non è la reazione immediata e ci è voluto tanto tempo per tanti motivi. Prima perché questo è un cloruro primario, fa bene le sostituzioni nucleofile SN2, è abbastanza hard con il cloro, mentre questo doppietto, che è il doppietto di natura piridinica dell'imidazolo, è soft, quindi non c'ha tanta voglia di reagire e ci hai dovuto pigiare dentro. Poi vedremo che questa reazione si deve fare in un solvente particolare, un solvente in cui questo composto non sia solubile, quindi sposta l'equilibrio perché precipita mano a mano che si forma. Ecco, chi è il controione? Il cloro. Beh, ma allora noi possiamo migliorare la reazione, al posto dell'etilcloruro possiamo usare un controione. Ovviamente lo ioduro, ovviamente il bromuro, ma ovviamente il tosilato. Ovviamente ce n'è una vasta gamma di controioni X. Oltre che il cloro, il bromo, lo iodio, potrebbe essere il tosilato, tosilato, TS. Potrebbe essere il meno, tutti meno. Potrebbe essere l'N, tosile, tosile. Meno, cioè al posto della sodiammide la ditosilammide, quindi il ditosilammiduro, che è una buona base uscente, perché, quindi un buon gruppo uscente perché esce come base, perché questa carica negativa è stabilizzata da due gruppi elettronatrattori che sono i tosilati. BF4 meno. PF6 meno e così via. È evidente che dobbiamo partire dall'apposito precursore, però ci troveremo di fronte a prodotti che poi potrebbero avere punti di fusione, ed è quello che ci interessa, diversi. Quindi, una volta che noi abbiamo precipitato questa roba, la filtriamo, la secchiamo, la portiamo la purifichiamo, insomma, nei modi che le parti sperimentali ci dicono, e poi quando la useremo come solvente, la buttiamo dentro il nostro reattore come un solido, però scaldiamo e subito a temperatura quasi ambiente si solubilizza. È evidente che dobbiamo tenere conto di un certo numero di cosette. La prima cosa da fare, quindi, quando sintetizziamo questi prodotti, sostanzialmente, è cercare di mettere in principio i due gruppi R che noi ci vogliamo mettere su un azoto e sull'altro azoto, e poi cercare di lavorare sul controione per metterci quello che ci serve. Grosso modo, l'ideologia legata alla sintesi di questi prodotti è siffatta. Allora, se io mi voglio creare uno schema per sintetizzare questa roba, parto ovviamente da questo, per esempio, che mi sono fatto, R1, R2, più X-. Allora, se io devo cambiare l'X, ci posso mettere per esempio un metallo Y. Cosa succede? Succede che si forma metallo X più, almeno questo è il mio scopo, R' azoto NR, così sempre più, però questa volta ce l'ho come controione Y. Allora, come al solito, come controione Y, io chi c'ho? C'ho il BF4 meno, il PF6 meno, il tosilato meno, che va molto di moda, l'NO3 meno, perché no, il nitrato. Ah, sì, questo che viene utilizzato parecchio, il ditosilammiduro meno, eccetera, eccetera. Questa reazione, perché vada avanti, deve avere una caratteristica fondamentale, perché questa cosa si fa in acqua. Allora, se io la faccio in acqua, qui si formerà MX. Allora, cosa vuol dire questo? Che MX è solubile nell'acqua, e quindi io con lavaggi lo porto via, ma questo deve essere insolubile, perché così si precipita e io lo posso filtrare e purificare bene. Analogamente, io potrei usare un HY qui, un acido. Se io uso HY con il prodotto di partenza, che è sempre il dialchil 1,3 imidazolil cloruro, ottengo, o voglio ottenere, nella mia idea, questo più Y meno come controione più HX. Ora, è evidente che se io uso per esempio HX acido nitrico o HBF4, devo ottenere in un caso e nell'altro l'acido cloridrico, se sono partito qui dal cloruro corrispondente. L'acido cloridrico è un acido forte. L'unica possibilità che io ho di fare questo, siccome sta reazione la faccio in acqua, è che lui, come al solito, sia insolubile nell'acqua, perché se no sta reazione non la posso fare. Lui è insolubile nell'acqua, si sposta l'equilibrio, l'acido cloridrico finisce nell'acqua, io poi con continui lavaggi lo porto via. Questa è un po' la tecnica, però potrei fare anche un'altra cosa, sempre lavorando sulla solubilità. Perché se io non posso lavorare in acqua, perché il mio sale di imidazolio è solubile nell'acqua, questa cosa non la posso fare. Allora devo utilizzare un altro solvente, un solvente per esempio organico, e metterci qui un sale d'argento. Il sale d'argento mi porta via AgCl, che sicuramente precipita, no? E io posso, a seconda del sale, per esempio nitrato, diciamo semplice, ottenere il mio corrispondente R' più NO3 meno. In soluzione organica, perché posso filtrare facilmente AgCl. Lo posso fare anche in acqua, ma vuol dire che AgCl precipita benissimo, ma questo deve rimanere solubile nell'acqua, perché se no ho delle difficoltà, capite, a separare un sale dall'altro sale, quindi uno dei due deve essere non solubile. Quindi vedetevela un po' come vi pare. In questo contesto esiste anche la possibilità di aggiungere, per esempio, come vi dicevo, LCl3 e costituire un sale di midazolio con un controione più complesso, AlCl4-, oppure, che ne so, AlCl3-Br. Se noi partivamo dal bromuro, oppure AlBr3-Cl, perché a seconda della quantità dell'acido di Lewis, in questo caso AlCl3, che io ci metto dentro, si creano dei complessi in cui la AlCl3 è compensata a 1, 2 o 3 molecole di midazolio, e quindi il punto di fusione di questa miscela ovviamente cambia. Ce ne sono di tabelle di questi composti infinite, quindi noi possiamo scegliere sostanzialmente poi il punto di fusione che vogliamo, perché sarà quel punto di fusione che un pochino ci farà, se vuoi, da volano termico, questa volta, della reazione. Ovviamente vi ricordo che reazione già bella in vista, più ammoniaca più HHCO, multi-component reaction, ci facevamo il nucleo fondamentale dell'imidazolo. Comprendete una cosa fondamentale? Che non si può tanto lavorare su composti di questo tipo, perché questo idrogeno oscilla tra la posizione 1 e la posizione 3, e quindi una volta è vicino al carbonio che è legato a R1, una volta è vicino al carbonio che è legato a R, e sono due composti differenti. Quindi il punto di fusione, che è la cosa che ci interessa in questo contesto, ci si complica parecchio. Invece una cosa che possiamo fare è, prendere questo, farlo reagire con un acido, per esempio l'acido paratoilsolforico. Scriviamolo così, H8-sile. Beh, questo sappiamo, non ci sono problemi, che si formerà H+. Benissimo. Tosilato meno, ovviamente. Tosile o meno. Questa volta i controioni sono importanti, quindi li scriviamo. Se io faccio reagire questo composto qui con un composto, che ne so, alfa beta insaturo come questo, dove io ho un idrogeno acido e un nucleofilo, sostanzialmente, sono nelle condizioni di far reagire un composto carbonilico con un derivato dell'ammoniaca. Noi sappiamo che questa reazione va tra un pH di 4,8 e 5,2, che è, guarda caso, è il tampone dell'ammoniaca, sostanzialmente. Cioè, cosa facciamo allora? Facciamo reagire questa cosa, però l'azoto è soft, e il fatto che l'azoto sia soft ci dirà che l'addizione azoto-idrogeno avverrà alla fine a questo legame, e quindi io otterrò questo azoto così. Quindi più ho tosile meno. Sono riuscito a costruire anche una molecola che ulteriormente manipolata, trasformata attraverso le trasformazioni chimiche di questo CO, mi può dare qui delle cose anche più complesse. Quindi è facile, a questo punto è aggredibile la sintesi di questi composti, che quindi costano poco. Come vedete, la maggior parte di queste reazioni si fa in acqua. I solventi quindi, che noi tiriamo fuori costeranno poco e possiamo in qualche modo usarli con una certa tranquillità. Questi composti però hanno dei pregi, ovviamente, perché hanno la capacità di solvatare i gas, hanno la capacità di solvatare le cose più polari possibili, quindi sostanzialmente ci permettono di fare delle reazioni anche a temperatura ambiente, lo vediamo fra un attimo. Il problema è che sono però un po' viscosi, perché è vero che anche a temperatura ambiente, grosso modo, io, o scaldando poco, riesco a renderli solubili, però sono sempre sali di ammonio quaternario, sono un pappone che comincia a solvatarsi, a sciogliersi, e man mano che si fonde, ecco, il termine esatto è fondere, non subito hanno una viscosità utilizzabile negli impianti. Va ricordato che negli impianti c'è un problema fondamentale, che è l'uso dell'agitazione. L'agitazione è di solito un motore che è grosso, che fa girare una paletta grossa. E il motore dura meno se deve agitare sostanzialmente un liquido molto denso, molto viscoso. Denso e viscoso, ve lo ricordo, sono due cose differenti. Per cui bisogna scaldare sempre un pochino di più, non accontentarsi di fondere questa roba, per renderla un pochino più morbida, un pochino più fluida, diciamo così. A questo proposito c'è questo bel grafico che copiamo, perché ci sono dei numeri che a memoria io non me li ricorderò mai, ma che ci fanno capire una cosa fondamentale. Allora, se noi mettiamo su un asse la temperatura, che va, fai conto, da 100 gradi qua, 50 gradi qua, meno 50 gradi, meno 100 gradi, e qui ci mettiamo il numero di atomi di questa catena, e qui ci mettiamo un CH3, più ovviamente BF4 meno, tetrafluoborato di 1-metil-3-alchil-imidazolio. E andiamo a guardare, scopriamo che quando N è uguale a 0, grosso modo il suo punto di fusione è 50 gradi. Quando N è uguale a 1, 1 qui, 2, 4, 6, 8, 10, eccetera, eccetera. Quando è uguale a 1, il suo punto di fusione è 100 gradi. Quando è uguale a 2, il suo punto di fusione sarà 20 gradi. E qui abbiamo, grosso modo, valori di questo tipo, e a 10 unità risalta sulla curva per fare una roba fatta così. Grosso modo, Quindi, che cosa si evince? Sostanzialmente, che se io scelgo una catena lunga 4, 6 atomi di carbonio, c'è un punto di fusione di 50 gradi sotto lo zero, quindi a temperatura ambiente, a 0 gradi, questi sono tutti liquidi. A 25 gradi la mia reazione la faccio qui, sicuramente sarà liquidi e poco viscosi questi solventi qua. Quindi ci stiamo, ci possiamo stare in questo tipo di reazioni, di reattività. Un'altra tabella che fa capire bene il comportamento di questi signori è questa. Allora, qui, cancelliamo, togliamo questo. Così si capisce bene la capacità solvatante di questa roba. Prendiamo il benzil metil imidazolio. Bene. E il controione usiamo, guardiamo, il cloruro, studiamo. Poi studiamo il tetrafluoborato, BF4-, il PF6-, N-triflato-meno. Il triflato è il gruppo SO2-CF3, tanto per intenderci, cioè l'acido metansolfonico, dove al posto del CH3 c'è un CF3, quindi è un acido estremamente acido. Quindi quando io due gruppi triflati li metto addosso a un azoto che ha una carica negativa, questo è un ottimo gruppo uscente. Benissimo. E le cenere. Vediamo a temperatura ambiente che cosa succede come solvatazione nell'acqua, nel metanolo e nel cloruro di metilene, CH2, Cl2. Allora, in acqua questo composto è solubile, scrivo sì, anche il secondo, il tetrafluorato, è solubile. No, questo non è più solubile, questo non è più solubile, questo non lo guardo nemmeno perché se metto nell'acqua la LCl3 faccio una fumata. Quindi, diciamo, non dato. Il metanolo stesso, questo fa sempre una fumata, però la solubilità, il metanolo si estende un pochino perché questo è solubile, questo è solubile, questo è solubile e questo è solubile. In CH2Cl2 questo è solubile, ecco perché ho usato il CH2Cl2, perché ci servirà poi per fare queste reazioni. Questo non è solubile ovviamente, ma questi qui sono tutti solubili. Quindi, ovviamente, da questa tabella si riesce a capire che se io devo fare un certo tipo di reazione e mi serve questo controione, che poi l'ho scritto male perché è NCl4-, pardon, tetracloruro alluminato, atomo, perché è caricato meno, onio caricato più, ate caricato meno, sono queste le nomenclature, vi ricordo. Allora, se io devo fare, lo vedremo, una reazione di Friedel-Crafft in questo solvente, devo usare il CH2Cl2 come solvente. Ho buttato collo, il CH2Cl2 è un solvente che sì, un po' si accetta ma un po' non si accetta, soprattutto per le reazioni. Si preferirebbe usarlo come solvente di estrazione, ma non come solvente di reazione. Però in questo caso non si può avere tutto, siamo costretti a utilizzarlo in qualche modo. Quali sono le reazioni che possiamo utilizzare per far bella figura ai nostri solventi nuovi, cioè i liquidi ionici? Una ve l'ho già detta, la reazione di Friedel-Crafft. La reazione di Friedel-Crafft prevede che io usi come catalizzatore un acido di Lewis, che potrebbe essere nella fattispecie la LCl3, ma io ce l'ho già la LCl3, ce l'ho direttamente nel solvente. Quindi se io prendo il benzene e lo tratto con il cloruro di paratulo ersolfonile, in queste condizioni benzil etil imidazolio AlCl4, io riesco a ottenere rapidamente, quindi non ho bisogno di metterci il catalizzatore, altissime rese del prodotto che io mi aspetto. Analogamente posso usare il benzene più ClCOR per ottenere nelle stesse condizioni di reazione. Qui io, vedete, non mi devo preoccupare di una cosa fondamentale. Quando io faccio una acilazione sopra e sotto, non se ne parla nemmeno dell'acilazione, va con una scheggia, ma nella acilazione, dove devo utilizzare tanto AlCl3, quanti gruppi chelanti da AlCl3 ci sono, più una quantità catalitica, non mi devo preoccupare di questo, perché il catalizzatore è praticamente il solvente di reazione, perché ci sarà sempre un po' di AlCl3 libero che mi farà il giochino che io voglio che faccia. Per esempio, posso fare anche un'altra cosa, che è questa: benzene più ciclesene più un acido di Lewis. In questo contesto l'acido di Lewis che si usa è lo scandio tricloruro, solo perché la gente, secondo me, la AlCl3 era troppo, doveva scrivere un lavoro nuovo e un po' non che uscisse un po' dalle righe delle cose conosciute, e allora ecco che si usano alogenuri differenti. Però in questo contesto lo scandio tricloruro o lo scandio triflato che viene utilizzato, che sono ovviamente scandio o TF tre volte, sono sicuramente reagenti che vanno benissimo come catalizzatori, sono meravigliosi. Io ho il tremendo sospetto che se non ce li metti funziona lo stesso tutto. Ecco, questo succede in molte reazioni dove vengono utilizzati dei catalizzatori perché si sa che ci vuole quel catalizzatore, però nessuno prova mai a togliere il catalizzatore perché si scopre che la reazione magari funziona lo stesso, perché nella reazione si è creato un sale come sottoprodotto che fa da catalizzatore del secondo step. È successo tante volte. Allora, in questo contesto il sale di benzil etil imidazolio AlCl4 utilizzato fa da solvente, e quello che succede è che questo, che è un acido di Lewis, si complessa al ciclesene, come fanno tutti gli alogenuri metallo. In questa volta ci saranno due X, ci sarà un più e ci sarà un X meno, perché il metallo vale 3. Ma capite bene che sta per formarsi un carbocatione. Quando arriva il benzene e vede questa cosa qui, quello che fa è questo, cioè si aggancia creando una carica positiva qui sopra. È evidente che questa carica positiva poi viene eliminata per la riformazione dell'aromaticità, e alla fine io mi trovo il prodotto finale della reazione, che è il ciclesil benzene. Qui sono reazioni che durano pochissimo. Va bene, abbiamo usato sto scandio, c'è scandio nella letteratura, c'è questa cosa qui, il triflato di scandio, va bene. Però dovete capire qual è il principio fondamentale, perché così voi ci potete mettere quello che vi pare con la testa. Però questo è il ciclesene. Il ciclesene come doppio legame è soft, quindi ci devi mettere un alogenuro alchilico soft. Cioè, in altre parole, non ci mettere il BF3, che non ti funzionerà mai, o ti funzionerà malissimo. Mettici il rame ioduro. Vuoi vedere che col rame ioduro, che costa molto meno dello scandio triflato, la reazione va bene lo stesso? L'HgCl2 mettici. L'HgCl2 non ce lo puoi mettere perché il mercurio nell'industria è cattivo, va bene, ma in quel contesto il cadmio che sta sopra zinco, cadmio e mercurio, ci metti lo zinco. Zinco, bromuro, ma secondo te non va? Lo zinco, anzi ioduro, perché lo zinco, l'abbiamo visto nella lezione di Clemmensen, gli piace tanto il doppio legame carbonio-ossigeno, che è un pochino più hard. Certo, ci puoi mettere qualsiasi altra cosa che non sia questa cosa strana che è lo scambio. Cioè il ferro tricloruro. Dai, mettiamoci il ferro tricloruro, che lo vedo molto meglio. Quindi, primo aspetto, non vi fate fregare da questa cosa qui, perché chi ha scritto sto lavoro, siccome tutti ci avevano già messo dentro tutto, gli era rimasto lo scandio, e allora ci hanno messo anche lo scandio, perché così gli passano il lavoro i riferi, sostanzialmente, perché di innovativo non c'è nulla qui dentro. Attenzione, qual è la difficoltà di scegliere bene il metallo che serve da fare acido di Lewis in questa reazione? Cosa che non si trova scritto da nessuna parte. Il solito problema della complessazione. Cioè, se io ho la LCl3, la LCl3 è fatto così, Cl, Al, Cl, Cl. Questo metallo qui, qualsiasi esso sia, si complessa qui e fa questo lavoro qui. Allora, questo complesso qui, che costante di stabilità c'ha? Perché se c'è una costante di stabilità tremenda, questo dipende dal metallo che io ho scelto, una volta che mi sono agganciato ai due atomi di cloro a ponte di questo complesso, non mi stacco più, quindi non ci ho messo niente dentro. Si sospetta fortemente che in questo lavoro lo scandio non serve a niente, perché lo scandio ce l'hai messo, sei complessato e qui funziona sempre il solito AlCl3. Questo, se uno sa leggere tra le righe del lavoro, si accorge che ci sono dei lavori che sono degli acchiappacitrulli. Ma la cosa che ci interessa a noi è capire come lo scelgo questo qui, perché poi lo scegliete voi con raziocinio. Secondo me ci potrei mettere questo, ecco, capito? Oh, è questa la cosa che mi interessa, insomma, farvi notare. Che reazioni ci posso fare? Delle reazioni di ossidazione. Facciamo una reazione di ossidazione, avevamo il ciclo esene, ossidiamolo all'epossido corrispondente. Ciclo esene. Ci voglio fare l'epossido del ciclo esene. Qui ci vuole un metallo, un ossido di metallo, che ne so, potrebbe essere il PTO2, PT. Platino, O2, il renio, ossido, sono quegli strani composti, il PTO2 è facile, il renio magari uno se lo deve inventare, che hanno però la capacità di donare degli ossigeni come oxeni. Te cazzo senti di oxeni? Oddio, l'oxene. L'oxene è l'ossigeno atomico. Questo. Guarda, il carbene è questo. Quindi quando trovi scritto oxene è questo qui, senza problemi. E ovviamente questa roba si deve solubilizzare, perché questa non è in quantità catalitica, qui ce la metti stoichiometrica, a meno che non ce ne metti poco, perché ti costa un sacco di soldi, ma ci devi mettere qualcosa che ossidi. Allora cosa ci metti, per esempio? Il tetrossido di osmio, catalitico col permanganato stechiometrico. Il tetrossido di osmio, che è stra soft, va ad agganciare il doppio legame e lo ossida. In questo caso il tetrossido di osmio, poi ci troverai alla fine che ci hai messo due ossigeni, per cui c'hai il diolo, l'1,2 cicloesil diolo. L'osmio diossido reagisce col permanganato, che è diventato più hard, reagisce col permanganato, si ritrasforma in tetrossido di osmio. Il permanganato, che è troppo hard per reagire velocemente con il doppio legame, non lo guarda nemmeno. Quindi, osmio, tetrossido attacca il doppio legame, il doppio legame si ossida, il tetrossido di osmio si trasforma in diossido, il diossido viene ossidato e attaccato dal permanganato, che costa molto meno, e ti vai avanti così. L'osmio è tossico, ma ce ne metti talmente poco che quasi non lo vedi più. Cioè, anche in condizioni di utilizzo di una quantità elevata perché sei su un impianto industriale, beh, questa quantità è sempre molto piccola alla fine. E hai risparmiato un sacco di soldi perché il permanganato costa meno. Sostanzialmente funziona così. Ci sono delle reazioni che possono essere fatte, anche questa qui, molto più casereccamente nell'acqua e nell'acqua ossigenata, sostanzialmente. Puoi utilizzare allora un... direttamente l'acqua ossigenata dentro il... come si chiama il liquido ionico e ovviamente utilizzando per esempio l'etilmetilimidazolio tetrafluoborato e si ottiene lo stesso l'ossidazione a epossido del doppio legame di ciclesene quindi anche in modo molto più semplice c'è una reazione che mi interessa mostrarvi perché è veramente una reazione inusuale che non trovo più, ma eccola qua. Questa è carina, per esempio, perché è, da un punto di vista industriale, benzene con rutenio idruro in quantità stechiometrica con il benzil etil imidazolo BF4- o PF6- da ciclesano. Cioè, vi rendete conto che siamo riusciti ad ottenere la riduzione. Ovviamente ci vuole, perché questo è catalitico, allora se questo è catalitico ci devo mettere l'idrogeno dentro, la riduzione del benzene a ciclesano. In alcuni contesti reattivi, per fare un anello ciclesilico, si preferisce utilizzare il benzene corrispondente. Perché? Perché se l'anello ciclesilico è ciclesano, chi se ne frega? Ma se l'anello ciclesilico ha diversi sostituenti qua, è più facile partire da un ipotetico benzene sostituito e ridurlo. Allora, siccome il benzene sostituito può essere fatto sovente, più facilmente... Sì. Il problema è che io, per esempio, devo sintetizzare questo. Non è facile, però questo qui può venire in linea di principio dal corrispondente prodotto che non costa niente nell'industria, che è l'1,3,5 trimetilbenzene, lo stilbene, che si fa benissimo dalla alchilazione di Friedel-Crafts col bromuro di metile, lo ioduro di metile e la LCL3 e si ottiene il prodotto termodinamicamente previsto dalla reazione, proprio perché la reazione di Friedel-Crafts, la alchilazione, è reversibile. Quindi quello che succede è che si forma prima il toluene. Nella seconda alchilazione si forma l'orto e il para. Sì. Nella successiva alchilazione da qui viene fuori questo, che è lo stesso che viene fuori da questo. Questo gruppo qui si stacca e questo si riassesta, in realtà è questo che si stacca e si attacca qui, per formare il prodotto finale, metile, metile, metile. Ecco che non costa niente, perché non butti via nulla, anche se a un certo punto la reazione prende il via e fa altre cose, alla fine c'è sempre lo stilbene. costa poco. Questo ovviamente lo riduci in queste condizioni, utilizzando quindi il benzile, etil, imidazolio tetrafluorato, con l'uterio idruro e l'idrogeno. L'idrogeno che ti hai disciolto nel solvente saturandolo di idrogeno. Non è male. Proprio se come sostituenti, invece di avere un CH3 quindi un metile, abbiamo un aldeide, anche tu, non la possiamo fare questa? Ovviamente no, perché l'aldeide e il chetone, anche se andrebbe provata, perché le aldeidi e i chetoni con gli idruri metallici reagiscono con una lentezza tremenda, perché l'idruro metallico è soft e il doppio legame carbonio-ossigeno è hard. Quindi ci sta che nelle condizioni di reazione, dosando gli sforzi, tu riesca lo stesso a farla. Questa andrebbe provata, ovviamente. Andrebbe provata. Sì, benissimo. Ho una reazione che noi possiamo utilizzare e che nell'industria ha molto successo, è la reazione di Eck. La reazione di Eck è un coupling tra due atomi di carbonio, opportuni atomi di carbonio. La reazione di Eck funziona così. Tra le tante, ne ho pescata qualcuna per farvi capire che poi ci potete mettere un po' dentro di tutto. Certo, in un composto del genere non puoi fare una riduzione con il chialumi idruro. Il chialumi idruro no, ma rutenio idruro sì. Ecco. Dunque, cosa volevo dire? Non ricordo più. Ho avuto un attimo di... Ah, Eck, sì, Eck è qua. Allora, vedi che devo andare in pensione, per forza, perché... Allora, un alchene, un alugeruro arilico e ci mettiamo dentro del palladio. PD, 0. La reazione di Eck prevede che il palladio entri nel legame aromatico cloro. Come vedete? Vedete che questa è la reazione di Grignard. Rx più Mg. Già, però se la facevo col magnesio, sul cloruro del benzene non mi funziona, a meno che il cloro lo tolgo e ci metto il bromo, a meno che il solvente, l'etere etilico lo tolgo e ci metto il tetraidrofurano che bolle a 65 gradi, perché sennò questa reazione non va. Che cosa devo tentare di fare? Devo cercare di trovare un metallo che elimini il magnesio, quindi che valga sostanzialmente 2, che ci abbia 2 elettroni a giro che possono essere donati con il meccanismo di single electron transfer, che doni meglio sti elettroni, il palladio. Il palladio lo fa a meno 20 gradi questo lavoro qui, E quindi sono riuscito a inserire questa roba qui. Questo con l'alchene prevedo che il palladio faccia quello che mi aspetto che debba fare, sostanzialmente si complessa il primo intervento, intermedio di reazione, così che poi io posso scrivere in qualche modo CHH palladio così più Cl meno. A questo punto un H più se ne va si forma palladio Cl meno H più, ovviamente l'acido cloridrico se ne va, e allora ci vuole una base, perché se no non succede nulla. E come base cosa scelgo? Qualcosa che vada bene lì. Trietilammina. Che non dà fastidio a nessuna, sono tutti sali d'ammonio, la trietilammina non ci avrà problemi, e io ottengo carbonio, idrogeno, carbonio, H, R, palladio aromatico, eliminazione riduttiva, e finalmente ho ottenuto benzene appiccicato a questa roba qua. Questo sostanzialmente è la reazione di Eck. Questa la posso fare in queste condizioni, chiaramente. Però bisogna che vi dica sulla reazione di Eck che le cose non stanno così come sono scritte sulla lavagna. Cioè, sì, meraviglioso, ma se non ti dico che io ho utilizzato due pezzi che si attaccano bene, allora, guardate, il trucco, perché sennò non vi viene questa reazione di Eck, il trucco è qui. Quando si ha l'eliminazione riduttiva, il fenile si aggancia a questo carbonio SP2, la cosa accade perché questi due sono in cis tra di loro, quindi qui ci saranno due leganti cis, perché la situazione trans non produce niente, però il trans è in equilibrio con poco cis, quindi, perché si dice che il trans è più stabile per effetto trans. Sul libro c'è scritto una, cioè sul libro di chimica generale ci sono scritte delle stupidaggini sull'effetto trans. Il cis è meno stabile del trans, ma questi due, per poter fare la reazione di coupling, di accoppiamento, devono fare così, il palladio. Da una parte c'è un legante, dall'altra parte c'è un altro legante, qui c'è un R1 e qui c'è un R2. Un'altra molecola di solvente va sul palladio, il palladio si piega e cambia simmetria, così, legante 1, legante 2, questo qui, R e R1, si avvicinano tra di loro, perché mano a mano che si piegano, i due leganti si accoppiano, perché gli orbitali si sovrappongono e a un certo punto si agganciano. Questo accade solo e solamente se, uno, i due gruppi R sono in cis. Due, c'è un legante che si appiccica qui con forza. Tre, hanno la stessa softness, se no è col cavolo che si agganciano. Perché se non hanno la stessa softness, la reazione non avviene. Allora andate a rivedere tutte le reazioni di coupling che sono state fatte con questo sistema e scoprite che un fenile, che è un SP2 come carbonio, si aggancia a un SP2 come carbonio che è un alchene. Ma se al posto dell'alchene ci metti un CH3, è col cavolo che il fenile si attacca al CH3. Non funziona, sì, poverino, ci avrai il 5% di resa. Se te invece hai due CH3, ecco che vuoi vedere che le cose funzionano meglio. Se te hai due fenili, ancora meglio. Se te hai due alcheni, ancora meglio. Se te hai due alchini, ancora meglio. Ecco, questa è la limitazione della reazione di Eck, che non si capisce perché sul libro non c'è scritto. Perché è una banalità, perché questo ti permette di capire la chiave di lettura e poi la puoi inventare te la reazione, perché lo sai, quando ti diranno sull'impianto bisogna fare questa reazione di Eck, non la provate nemmeno perché non vi verrà. Fai risparmiare un sacco di soldi al tuo padrone e il tuo padrone è contento. Santi Dio. E queste sono le sciocchezze che ci sono un po' dietro queste i piccoli trucchi, che però sono trucchi legati alla chiave di lettura. Sì. Però il palladio non poteva legarsi anche all'altro atomo di carbonio nel doppio legame. Allora, vediamo subito. Il palladio, a quale livello? Terzo passaggio. Siamo qui. Qui. Ma guarda dove ho messo il carbocatione. Carbocatione secondario. Certo, perché queste reazioni fatte con il palladio sono un po' da bosco e da riviera, e quindi il palladio a volte si apre anche dall'altra parte, però sarebbe un prodotto termodinamicamente meno probabile. Quindi la velocità di formazione dell'altro carbocatione, che è un carbocatione primario, se non ci sono effetti misteriosi, che a volte ci sono, non si dovrebbe formare. È evidente che se qui e qui ci sono due gruppi che se la danno, come stabilità, allora si ottiene sicuramente una miscela di prodotti. Certo, l'area geochimica della reazione. E ancora una volta vedi che il palladio si comporta come l'HgCl2, come il nichel di cloruro, da questo punto di vista. Possiamo con queste reazioni farci un sacco di cose, tranne che lavorare con basi forti che distruggerebbero il solvente utilizzato, perché il solvente utilizzato è caricato positivamente. Quindi voi dovete sempre tenere presente che aspetta, no, questo lo metto qui, questo lo devo mettere qui, questo lo devo mettere qui, questo devo mettere qui e devo scriverci più. Si capisce da questa struttura limite che se io tratto questo con un idruro, l'idruro mi va a sbattere qui e succede che l'anello della molecola di solvente si perturba, cioè si rompe. Quindi sì, i solventi ce l'ho tanto, di idruro magari ci hanno messo una quantità stechiometrica che mi serve per fare la reazione, però se tutto reagisce con il solvente capite che non la posso usare la reazione. Sostanzialmente sì, questa è la limitazione formale. Apriamo ancora un altro cassetto della Green Chemistry, perché ci è venuto voglia, lavorando sui solventi, di pensare che potremmo anche eliminarli del tutto. Eliminare del tutto i solventi sarebbe una cosa meravigliosa. Ma come si fa a fare una reazione senza solvente? Beh, quando i due prodotti sono liquidi che te metti dentro, va grosso modo, certo, magari saranno viscosi, bisognerà scaldare per diminuire la viscosità, ma quando sono solidi devi scaldare tanto perché li devi fondere. E quando fondono, chiaramente poi potrebbero anche reagire, visto che sono già sicuramente a una temperatura elevata. Il problema non è questo. Il vero problema delle reazioni senza solvente è un altro. Una volta che uno fa la prima reazione senza solvente, si accorge dell'importanza del solvente come volano termico. Non c'hai più il volano termico. Quando ti parte la reazione, bisogna scappare nel bunker, perché la reazione avviene in un colpo solo e non c'è più nessuno che ti assorbirà il calore della reazione. Nessuno. Però, quando queste reazioni funzionano, è evidente che vanno usate, perché il solvente è l'85%, come si diceva l'altro giorno, della causa di inquinamento della nostra atmosfera. L'85% è determinato dalla quantità di solventi che vengono utilizzati nelle industrie chimiche. Quindi togliere i solventi sarebbe meraviglioso. Abbiamo già cercato di utilizzare solventi differenti. Togliere il solvente sarebbe meraviglioso. Allora, guardiamo questa reazione. NHNHCOCH2R. Allora, questa è una sostanzialmente è una idrazide, cioè è un ammide con l'idrazina del cloruro di un acido. Te prendi il cloruro di un acido e ci metti l'ammoniaca dentro, quello che succede, soluzione acquosa ammoniacale al 17%, si forma RCONH2. Bueno, se al posto dell'ammoniaca ci metti la fenilidrazina, avrai ottenuto una fenilidrazide. Bene. La fenilidrazide, questa, è un solido. Questa fenilidrazide te la metti in un fornetto a caldo con la presenza di ossido di calcio, CaO. Scaldi a 500 gradi e l'ossido di questa si fonde, in realtà a 500 gradi è esterno, perché interna la temperatura arriva a 250 gradi. L'ossido di calcio su questo pappone, che è in realtà il prodotto di partenza fuso, vede questi idrogeni acidi e ne strappa uno. E noi otteniamo NH C doppio origami O CH meno R. Evidenziamo il benzene. In queste condizioni la reazione parte esattamente a 249 gradi. Non riesci minimamente a regolare la temperatura scaldando poco, perché a 248 non fa niente. A 249 parte e te non ci puoi fare niente, perché parti in un colpo solo. E questa cosa fa così. Si apre questo anello, viene attaccato l'anello aromatico, e si forma CHRCONH-. Ovviamente, questa è una forma, se vuoi, chetoenolica, che, se scritta in modo corretto, fa tornare l'anello aromatico contento di esistere, NH2. Qui abbiamo RHCONH-. Questi due si scambiano tra di loro, tutto a 249 gradi, in un milionesimo di secondo, NH-CONH2. Questo entra qui sopra e butterà fuori l'NH2, quindi meno NH2, meno, e si forma RHN, da qui non c'è più, CO, H più NH2 meno. L'NH2 meno si prende questo idrogeno, si sviluppa ammoniaca NH3, una soffiata di ammoniaca dal refrigerante che te non riesci a bloccare. L'ammoniaca però andrà buttata in una soluzione acquosa di acido clorico diluito, perché se no la scarichi nell'ambiente, quindi riesci a fermarla, ma non la fermi nel reattore, no? Non c'è niente da fare, e te c'hai quello che è un sasso, ma che quando andrai a idrolizzare, questo è il sasso, qui c'è il sale di calcio, quindi se vuoi c'è un calcio qui e questa roba qui, 2, quando la vai a idrolizzare con acido clorilico diluito, tu hai il 99,9% di 3-alchil-ossindolo. 3-alchil-ossindolo, 99%. Reazione di Brunner, 1840. Tedeschi, solo i tedeschi si potevano inventare una cosa del genere. Reazione senza solvente. Ma l'ossindolo è una cosa meravigliosa per fare la sintesi degli indoli. Perché? Trattando l'ossindolo con litio alluminidruro, LiAlH4, è noto che 100% di resa R. E capisci a me, se qui ci hai messo un R otticamente attivo, qui alla fine ci avrai un R otticamente attivo. E quindi ti puoi studiare tutti quei composti otticamente attivi della natura, che ne so, col dicroismo circolare, con tutte le tecniche di attività ottica che ci sono oggi, perché sei riuscita a ottenere una molecola otticamente attiva, senza toccare quel centro chirale che, come ci avevi messo, con l'eccesso enantiomerico, te lo ritrovi con quell'eccesso enantiomerico alla fine. Nonostante che tu abbia scaldato a 250 gradi. Benissimo. Qual è il problema di questa reazione? Meraviglioso, non abbiamo utilizzato niente. Ossido di calcio e calore. Non si butta via nulla se non una molecola di ammoniaca. Quindi la percentuale di atomi di carbonio è 100%, non abbiamo buttato via nulla. E questo è un esempio di reazione senza solvente. Sicuramente sarà una reazione un po' particolare, se vogliamo, però ti permette di ottenere composti di un certo tipo. Notate come non è vero che l'anello aromatico non si possa toccare con un nucleofilo, perché NH-NHCO sostanzialmente è un gruppo che è elettronattrattore e quindi è attivante a qualche cosa di nucleofilo che si aggancia all'anello aromatico. Per cui questa reazione, come tante altre reazioni, sugli anelli aromatici avvengono bene. Ce ne sono tantissime di queste reazioni. Che si fanno anche con lo zolfo, oltre che con l'azoto. Somnet, mi sembra, che si chiamano le reazioni. O Somlet-Hauser. Se non ricordo male, perché la mente ormai mi tradisce un po', ovviamente. Le reazioni che noi possiamo fare, una delle classiche reazioni che viene studiata è la polimerizzazione Ziegler-Natta senza solvente. Nella polimerizzazione Ziegler-Natta sovente si usa come solvente l'esano. L'esano però è abbastanza pericoloso. E metterci leptano vorrebbe dire andare incontro a problematiche di densità, perché leptano è molto più denso e si lavora male nell'industria. È vero che ha un punto di fiamma meno pericoloso, è vero che lo puoi recuperare più facilmente perché ha un punto di ebollizione più alto, quindi durante la distillazione ne perdi meno sostanzialmente, è vero che la sua tensione di vapore te ne fa perdere meno, ma toglierlo totalmente non sarebbe meglio. Allora, in quel contesto la reazione di la polimerizzazione di un alchene, che potrebbe essere per esempio lo stirene, per fare il polistirene, si sta studiando e alcuni già la fanno in laboratorio senza solvente. Che cos'è la reazione di Ziegler-Natta? La reazione di polimerizzazione di Ziegler-Natta prevede, scriviamolo sulla lavagna, una serie di catalizzatori, ne hanno studiati strani, però al di là della stranezza dei catalizzatori, quello che conta è il come funziona il meccanismo di reazione. Quindi il meccanismo di reazione prevede sostanzialmente che si usi per esempio un composto, che ne so, per esempio di nickel 2, in addizione a un co-catalizzatore che potrebbe essere l'alluminio trialchile. Allora, il nickel, che potrebbe essere legato a due leganti qualsiasi, di cloruro, con ALRRR fa subito una cosa importante, cioè il trialchile alluminio è una R-, quindi è una base, è un nucleofilo, perché l'R- entra sul cloro e trasforma il nickel in nickel, R, legante. Questi sono uguali, quindi sicuramente hanno la stessa softness, se no non succede niente, nickel, L, che è un nickel 0. In questo contesto, quello che funziona sembra essere il nickel 0. Quindi tu c'hai un alchene, il nickel si aggancia qui, elegante, elegante, benissimo. Si apre. E si forma una carica positiva. Qui non c'è nient'altro che un altro alchene, l'alchene comincia ad agganciarsi. Nichel, due eleganti, e si va avanti così con la carica positiva. A un certo punto, ovviamente, qui si aggancerà un'altra molecola, facciamo che agganciare un'altra. Così distanziamo le cariche. Nichel, due eleganti, R. È una vera e propria polimerizzazione, no? Come si vede. Più R, così. Ovviamente qui, a un certo punto, si eliminerà un idrogeno e si formerà il doppio legame terminale. E qui, siccome il nichel ha l'orbitale vuoto che c'aveva anche il palladio, si prende questo idrogeno, per esempio, si elimina il tutto e si forma un doppio legame che blocca la catena. Sostanzialmente questa è la reazione. Nel meccanismo, quello che conta, come vedete, è sempre lo stesso, che cioè un nichel, un palladio, un mercurio, quello che è un samario, uno scandio, che si aggancia al doppio legame, è come un H+. Quello che conta in questa reazione è che quando il nichel 0 si forma, il nichel 0 si forma, c'ho un nichel fatto così, LL, alla fine della reazione c'ho anche della LCL3, per esempio, allora c'ho CL, AL, così. Se questo qui, intermedio di reazione, ha una costante di stabilità elevatissima, il nichel non si stacca più. Quindi mano a mano che si formano situazioni, andando avanti nella reazione, in cui il nichel, che è catalitico, e di questi controsali, qui ce n'è tantissimi, alla fine, c'è la probabilità che questi sali, proprio per la loro quantità, si aggancino alla specie del nichel e di questo non si stacchi più. Per cui il catalizzatore, il problema della reazione di Ziegler-Natta, è che si perde la capacità del catalizzatore di fare il turnover, dopo un po'. Per questo bisogna scegliere un opportuno co-catalizzatore, che è un metallo, che è vero che in questo caso è una base perché serve per fare il nichel 0 a partire dal nichel 2, ma è anche un acido perché la LR3 è un acido di Lewis perché ha gli orbitali vuoti. E alla fine della reazione questo acido di Lewis, se ti blocca anche qui di partenza subito il nichel, questo non può reagire. Quindi ci vuole un co-catalizzatore che sia in grado di complessare bene il nichel, ma di fare un po' da bosco e da riviera, cioè ti tengo agganciato a me, ti salvaguardo fino a che te non ti sganci e reagisci, poi ti riagganci a me e ti tengo fino a che tu non ti sganci e reagisci. Perché se ti tengo troppo sganciato, il nichel in quelle condizioni di reazione, si forma il nichel idruro dimerizza e si blocca. Perché il dimero del nichel idruro è un sasso rosso che precipita in soluzione e non ci fai più niente. Quindi ci vuole qualcuno, il co-catalizzatore, che appena si è formato il nichel 0 lo prenda e lo preservi dal fatto che lui incontri un altro nichel idruro, perché sennò è la fine. Però lo deve anche mollare, perché se lo tiene troppo attaccato a sé, il nichel idruro, insomma, la specie di nichel non reagisce, perché è attaccata al co-catalizzatore. Ecco, nella reazione di Ziegler-Natta il catalizzatore è importante, in questo caso il nichel o qualcos'altro, ma è importante forse di più il rapporto che c'è tra questo catalizzatore e l'altra specie che è un acido di Lewis, il titanio tetracloruro, si utilizzò sostanzialmente all'inizio nell'industria. Perché il titanio lasciava il nichel libero di fare quello che voleva, ma lo riprendeva al momento opportuno e se lo gli impediva di dimerizzare. Quindi tenete presente come è delicatissimo questo equilibrio qui. Delicatissimo. Questo è il cuore della lezione di Ziegler-Natta. Oh, qualcuno qui dentro l'avesse capito. Sono 30 anni che studiano la Ziegler-Natta. L'avesse capito che è così. Non l'hanno capito. E continuano a buttare a cazzo dentro. Proviamo con questo, proviamo con quello. Ma non è che la notte ti svegli e provi. Ci devi pensare col cervello, perché sennò non funziona. Di prove ne puoi fare tante quante ne vuoi, ma ci starai tutta la vita. Invece, se te sai che devi lavorare su queste caratteristiche, sì, farai sicuramente delle prove, però non impieghi 30 anni a trovare il miglior catalizzatore. Un'altra reazione che si può fare senza solvente è l'onnipresente DL Sulder. La DL Sulder veramente è da bosco e da riviera, si fa in tutti i modi possibili e immaginabili. Per fortuna DL Sulder ci hanno preso il premio Nobel. Facciamo per esempio questa. Allora, facciamo per esempio questa. Dunque, ora vedete una strana reazione, dice, ma questo a me che mi frega. Dunque, no. Aspetta, mi sembra che sia così. Così. Questa cosa strana qui non è nient'altro che il dimero del ciclo pentadiene. Allora, il ciclo pentadiene dimerizza facilmente, cioè fa la DL Sulder con se stesso. Per forza è soft il primo, è soft della stessa softness il secondo, anche se ci sputi sopra si agganciano tra di loro. E te lo vendono così. Tu lo distilli e mentre lo distilli, cioè lo scaldi, lui dimerizza, questo si apre, si stacca e dà origine, vedete qui, a questo pezzo qui, che è questo, e questo pezzo qua, che diventa questo. Questo è il dimero. Scaldi e si ottiene questo. Cioè, qui, te prendi questo, che è il dimero del ciclo pentadiene, lo scaldi e dentro ci metti questo. Un acido di questo tipo, un doppio legame di questo tipo. Mano a mano che si forma il ciclo pentadiene, incontra questo signore e fa la reazione di DL Sulder. In miscela, ovviamente. Beh, io sono partito dal CIS. Per ovvie ragioni ottengo l'ESO e l'ENDO, si chiamano questi due prodotti, e ci sono le condizioni per far venire più ESO, per far venire più ENDO, perché ovviamente uno dei due è termodinamicamente più stabile. Siccome queste sono reazioni reversibili, ovviamente te sei in grado di ottenere grandi quantità alla fine del prodotto più termodinamicamente più stabile, che è questo, e si capisce per le condizioni di reazione, perché qui ci sono due idrogeni che rompono le scatole, ecco, sostanzialmente, e che quindi rompono le scatole ai due gruppi carboalcossi, che sennò si troverebbero dalla stessa parte. Ecco. Beh, abbiamo fatto una reazione di DL Sulder senza solvente. Non è male. Possiamo fare tutta una serie di reazioni di condensazione senza solvente, per esempio. Prendiamo l'aldeide benzoica. Aldeide benzoica. Metiletilchetone. Ossido di calcio. Tutto solido. Ah, vabbè, l'aldeide benzoica è liquida. E il metiletilchetone anche lui è liquido, eh. Ossido di calcio, scaldi. E quello che succede è alla fine tu ottieni questo qui ti ha condensato con questo, così, ecco. rese altissime, 98%. Questi sono composti che vengono chiamati calconi, che servono per fare ovviamente composti naturali, perché beh, è evidente, i composti naturali quando si formano perché c'è l'enzima o perché le reazioni sono facili da farsi, quindi non è che stai a vedere lì bene il solvente, come è fatto, come non è fatto e così via. Le reazioni che si possono fare ancora senza solvente, in effetti se ne fecero tante in tempore, sono reazioni con i gruppi protettivi. Il gruppo protettivo si può mettere e togliere senza l'utilizzo dei solventi. Sì, è vero, nella green chemistry il gruppo protettivo non è piacevole da usarsi, perché sono comunque due reazioni in più che te utilizzi, però o così o pomì, quando te serve lo devi fare e non c'è niente da fare. Quindi te puoi prendere per esempio un alcol, ci vuoi fare il cloruro, l'acetile, è banale, ma questa reazione qui la puoi fare senza troppe remore, l'acido cloridrico e il gassoso se ne va da solo, e ti hai fatto questa cosa qui. Te vuoi proteggere un alcol, sempre un alcol, beh, con il diidropirano, questa è una reazione che va senza solvente. Ci metti il idropirano dentro, goccia a goccia, perché un pochino scalda il idropirano, perché ovviamente tutte le volte che te c'hai un doppio legame e questo doppio legame ti diventa un legame semplice, butta fuori il calore la reazione, perché il doppio legame sta qui, il legame semplice sta qui, quindi il calore viene buttato fuori. Alchino, alchene, alcano, bueno. Ovviamente ti ci vuole un poco di H+, una goccia di acido cloridrico concentrato, una goccia, un chicco di acido paraclorito solfonico, non lo vedi nemmeno in soluzione. Il solvente che te di solito usi, lo usi per fare il volano termico. In questo contesto avrai cura di raffreddare, per esempio, con un bagno di acqua e ghiaccio. Se il calore di reazione che si forma non è tantissimo, se no aggiungi goccia a goccia, piano piano, uno dei due reagenti, in quantità stechiometriche, la reazione è al 99,9%. Ci sono delle reazioni, vediamo per esempio, ce n'è una che è abbastanza interessante, che vi potrebbe essere utile, di questo tipo, che è la seguente. Allora, se voi lavorate con gli amminoacidi sono un po' delle bestie, perché sono solubili dappertutto, in ambiente acido, in ambiente basico, non sai come fa. Questo è un amminoacido. Ammetti che vuoi fare un estere di questo amminoacido. No? Fare un estere di questo amminoacido prevede che te poi, comunque tu lo faccia l'estere dell'amminoacido, lo devi estrarre e quindi devi usare l'acqua. E quando cominci a usare l'acqua si finisce per essere obbligati a togliere questo che non ha reagito. E questo che non ha reagito in ambiente acido è solubile in acqua, in ambiente basico è solubile in acqua e comincia ad avere dei problemi, bisognerebbe cercare di trovare una reazione fatta bene per cui te non hai più problemi di separazione dei diversi prodotti. Si usa questo, CH3, CO etile, CH3. Questo sarebbe un composto che è commerciale, è il 2,2' dietossipropano, che sarebbe poi l'acetone sotto 23 sfoglie protetto come acetale dell'alcol etilico. Quando te fai reagire questi due signori insieme, uno a uno, questo è liquido, questo potrebbe non esserlo, non ha importanza, quello che succede è che un OH si stacca di qui per attaccarsi qui, un O etile si stacca di qui per attaccarsi di qui, la caratteristica è che ci vorrebbe un H+, per catalizzare la reazione. Chi se ne frega, c'ho già l'acido dentro, non ci metto neanche il catalizzatore. E quello che ottengo è RCHNH2CO etile più CH3COH CH3. Che cos'è questo signore qui? L'acetone con una molecola di acqua. Tiri tutto a ruota vapor, acetone se n'è andato, l'acqua se n'è andata e te c'hai tutto il tuo prodotto senza bisogno di aggiungerci l'acqua, l'etere, le estrazioni in ambiente acido, in ambiente basico. O si fa così oppure non ci si cavano le gambe da queste reazioni qua. Ovviamente si possono fare, come vi dicevo, tutte le reazioni di condensazione che noi vogliamo e ci fermiamo qua, perché capite bene che vale la pena di provare a volte se possiamo fare a meno del guano termico. È evidente che non si può fare sempre, però molte delle reazioni più banali, come per esempio le condensazioni, possono essere, o le polimerizzazioni in generale, possono essere fatte, come si dice, un po' in bulk, cioè nello stesso ambiente, togliendo tutto quello che c'è da togliere. È evidente che togliere il solvente prevede due cose fondamentali. Uno, il volano termico non c'è più. Quindi te, se non sei capace su un impianto di regolare il calore della reazione, non la puoi fare quella reazione perché ti esplode l'impianto. Due, tutto quello che sai sulla chimica organica non funziona più. Cioè, speriamo che vada, perché te, il nucleofilo, l'elettrofilo, la solvatazione, la basicità, la nucleofilia, l'epsilon del solvente, finito. Lì si tratta di avere fortuna e di sperare che le interazioni solido-liquido, liquido-liquido, in qualche modo ti portino al prodotto finale. Sovente non è prevedibile, quindi se te hai una reazione che ha una regiochimica di un certo tipo, la fai senza solvente, potrebbe avere una regiochimica completamente diversa. Non è detto che peggiori la cosa, però insomma questi sono i parametri fondamentali in cui bisogna restare. E ci fermiamo qua.